Terzo anello ad alta voce. Tony Servillo legge I dolori del giovane Werther di Johann Wolfgang Goethe. Traduzione di Paola Capriolo. Di nuovo le tue idee balzane, disse Albert. Tu conduci ogni tesi all'eccesso e almeno in questo caso hai sicuramente torto, perché paragoni il suicidio di cui ora stiamo discutendo alle grandi azioni, mentre esso può essere considerato soltanto una debolezza. Infatti, è certo più facile morire che sopportare con fermezza una vita piena di tormenti. Ero sul punto di troncare la conversazione, poiché nulla mi manda in bestia come il fatto che qualcuno se ne esca con luoghi comuni insignificanti mentre io sto parlando con tutto il cuore, ma mi dominai, perché argomenti del genere li avevo già uditi spesso e a causa di essi mi ero spesso adirato, e replicai con una certa vivacità: tu la chiami debolezza? Ti prego, non lasciarti fuorviare dall'apparenza. Un popolo che geme sotto il giogo intollerabile di un tiranno, puoi forse definirlo debole se alla fine insorge e spezza le sue catene? Un uomo che per lo sgomento di vedere la propria casa in preda alle fiamme sente accrescersi tutte le sue forze e trasporta con facilità pesi che a mente tranquilla non riuscirebbe quasi a smuovere, o uno che, infuriato per un'ingiuria, tiene testa a 6 avversari e li sopraffà, possono forse essere definiti deboli? E amico mio, se la tensione è forza, perché l'eccesso di tensione dovrebbe essere il contrario? Albert mi guardò e disse: non prendertela, ma mi sembra che simili esempi non c'entrino affatto con il punto in questione. Può darsi, rispose. Mi hanno già rimproverato spesso il mio modo di stabilire analogie, che rasenterebbe il delirio. Vediamo dunque se riusciamo a figurarci in un altro modo quale debba essere lo stato d'animo di una persona che si risolve a sbarazzarsi del fardello della vita, di solito così bene accetto, perché solo se siamo in grado di immedesimarci abbiamo autorità sufficiente per parlare di una cosa. La natura umana, continuai, ha i suoi limiti. Può sopportare gioia, dolore, sofferenza solo fino a un certo grado e soccombe appena questo viene superato. Qui non si tratta dunque di stabilire se uno sia debole o forte, ma se possa tollerare la misura del suo dolore, sia esso morale o fisico. E mi pare altrettanto bizzarro accusare di viltà un uomo che si toglie la vita, quanto sarebbe disdicevole definire vile chi muore di una febbre maligna. Paradossale, troppo paradossale, esclamò Albert. Meno di quanto pensi, ribattei. Converrai con me che diciamo malattia mortale quella da cui la nostra natura viene logorata a tal punto che le sue energie sono in parte annientate e in parte rese inefficaci, tanto da impedire al malato di ristabilirsi, e questi non è più in grado di ripristinare con un felice mutamento il corso abituale della vita. E ora, mio caro, applichiamo tutto ciò allo spirito. Considera l'uomo nella sua limitatezza. Osserva come le impressioni agiscono su di lui, come le idee attecchiscono in lui, finché una passione sempre più intensa lo priva di ogni serena energia della mente e lo vota alla distruzione. Invano l'uomo pacato e ragionevole giudicherà dall'alto la condizione dello sventurato. Invano tenterà di consigliarlo. Proprio come un sano che si trovi al capezzale di un malato non è in grado di infondergli la più piccola parte delle sue forze. Secondo Albert, mi ero espresso in termini troppo astratti. Gli rammentai una ragazza che qualche tempo prima avevano trovato annegata e gli ripetei la sua storia. Una buona, giovane creatura, cresciuta nella cerchia angusta delle occupazioni domestiche, di un lavoro scandito in base al ritmo della settimana, ignara di qualsiasi possibilità di svago salvo l'andare a passeggio con le sue pari per la città la domenica, in un abito festivo racimolato pezzo dopo pezzo, e magari una volta ogni tanto ballare nelle solennità più importanti, e per il resto trascorrere qualche ora a chiacchierare con una vicina commentando un litigio o un pettegolezzo con tutta l'animazione del più vivo interesse. Una creatura la cui indole ardente avverte infine bisogni più intimi, incrementati dalle adulazioni degli uomini. A poco le gioie di un tempo le divengono insipide, finché un giorno incontra un uomo verso il quale l'attrae irresistibilmente un sentimento sconosciuto, nel quale ripone adesso tutte le sue speranze e dimentica il mondo intero. Non sente, non vede, non percepisce altro che lui, l'unico. Si strugge soltanto per lui, per l'unico. Non corrotto dai vacui trastulli di una volubile vanità, Il suo desiderio la trascina dritta alla meta. Ella vuole appartenergli, vuole trovare in un vincolo eterno tutta la felicità che le manca, godere insieme con lui tutte le gioie cui abbia mai aspirato. Ripetute promesse che imprimono a ogni sua speranza il sigillo della certezza, carezze ardite che accrescono le sue brame, le avvolgono completamente l'anima. Ella vive sospesa in una vaga coscienza, in un presentimento di gioia. La sua esaltazione raggiunge il grado estremo. Lei tende infine le braccia per afferrare tutto ciò che desidera. E l'uomo amato l'abbandona. Impietrita, fuori di sé, si trova davanti a un abisso. Tutto è tenebra intorno a lei, nessuna meta, nessun conforto, nessuna speranza, perché lui l'ha abbandonata, quello nel quale soltanto si sentiva vivere. Non vede il vasto mondo che le sta dinanzi, non i molti che potrebbero colmare la sua perdita. Si sente sola, abbandonata da tutti e ciecamente messa con le spalle al muro dallo spaventoso travaglio del suo cuore. Si butta giù per annegare tutte le sue sofferenze nel vasto abbraccio della morte. Vedi, Albert, questa è la storia di tante persone. E di, non è forse lo stesso caso della malattia? La natura non trova vie d'uscita dal labirinto delle forze confuse e contraddittorie e l'uomo deve morire. Guai a chi potesse assistere a un simile spettacolo e dire «quella pazza!» Se avesse aspettato, se avesse dato tempo al tempo, a quest'ora la disperazione sarebbe già passata, si sarebbe già trovato un altro per consolarla. È esattamente come se si dicesse quel pazzo morire di febbre, se avesse aspettato finché le sue forze si ristabilissero, i suoi umori migliorassero, che il tumulto del sangue si placasse, tutto sarebbe andato bene e lui sarebbe ancora vivo adesso. Albert, cui il paragone non risultava ancora perspicuo, mosse varie obiezioni e fra le altre la seguente. Io avevo citato l'esempio di una ragazza ingenua, ma come un uomo intelligente che non fosse così limitato, che dominasse con lo sguardo una più vasta trama di circostanze, potesse essere scusato in un caso del genere, questo lui non riusciva proprio a capirlo. Amico mio, esclamai, l'uomo è uomo, e quel briciolo di intelligenza che uno può avere entra poco o nulla in gioco quando la passione infuria e i limiti dell'umano gli si stringono intorno opprimendolo. Al contrario. Ma ne parleremo un'altra volta, dissi, e presi il cappello. Mi sentivo il cuore così pesante e ci separavamo senza esserci compresi, come del resto nessuno a questo mondo comprende facilmente l'altro. Agosto. È certo che niente al mondo rende tanto necessaria una persona quanto l'amore. Me ne accorgo osservando Lotte, cui dispiacerebbe perdermi, e i bambini non hanno altro pensiero che di sapere ogni volta se tornerò l'indomani. Oggi ero andato per accordare il pianoforte di Lotte, ma non riuscii a trovare il tempo di farlo perché i piccoli mi perseguitavano perché raccontassi loro una fiaba e Lotte stessa mi chiese di soddisfare questo desiderio. Tagliai per loro il pane della cena, che ormai ricevono volentieri da me, quasi come da Lotte, e narrai loro uno dei miei pezzi forti, la fiaba della principessa che veniva servita da mani magiche. È per me molto istruttivo, te l'assicuro, e mi stupisce l'impressione che queste fiabe fanno su di loro. Se talora mi capita di inventare un particolare secondario e poi di dimenticarlo quando racconto per la seconda volta, essi dicono subito che prima era diverso, così che ora mi esercito a recitarle a menadito, con una cadenza da cantilena, senza permettermi la minima variante. Da ciò ho imparato che un autore, pubblicando una seconda edizione modificata della sua opera, sia pure migliore dal punto di vista poetico, necessariamente la danneggia. La prima impressione ci trova ben disposti e l'uomo è fatto in modo tale che si può persuaderlo delle cose più inverosimili, ma subito esse mettono in lui salde radici e guai a chi volesse cancellarle e sradicarle di nuovo. 18 agosto. Doveva proprio essere così, che quanto rende l'uomo beato divenga poi la fonte della sua infelicità. Il pieno, caldo sentimento con cui il mio cuore si rivolgeva alla natura vivente, quel sentimento che mi inondava di una gioia così grande, che faceva del mondo intorno a me un paradiso, si è mutato ora in un insopportabile aguzzino, in uno spirito persecutore che mi dà la caccia dappertutto. Prima, quando dalla rupe sorvolavo con lo sguardo la fertile vallata di là dal fiume sino a quella collina e intorno a me vedevo tutto un germogliare, uno sgorgare, quando vedevo quel monte rivestito di alti e folti alberi, dalle pendici alla vetta, quelle valli dalle molteplici sinuosità ombreggiate dai boschi più ameni, e il fiume scorreva dolce fra i canneti sussurranti e rifletteva le belle nuvole che la brezza lieve della sera cullava lassù nel cielo, quando poi intorno a me gli uccelli animavano la foresta e miriadi di moscerini danzavano audaci negli ultimi rossi raggi del sole, il cui ultimo esitante sguardo attirava fuori dall'erba i maggiolini ronzanti, e il frullio e il tramestio mi inducevano a osservare il terreno e il muschio che strappa il proprio nutrimento alla mia dura roccia e la sterpaglia che prospera giù per le aride dune di sabbia mi svelavano l'intima, fervida, sacra vita della natura. Come allora accoglievo tutto ciò nel cuore commosso, sentendomi simile a un dio in quella pienezza traboccante, e le meravigliose forme del mondo infinito si muovevano nella mia anima vivificandola tutta. Montagne immense mi circondavano, abissi mi si aprivano dinanzi, e i torrenti precipitavano, i fiumi scorrevano sotto di me, e monte e foresta ne risonavano. E io le vedevo agire e creare tutte le forze imprescutabili, intrecciandosi l'una con l'altra nella profondità della terra. Ed ecco, sopra la terra e sotto il cielo, brulicano le specie molteplici delle creature, tutto, tutto popolato da mille forme. E poi gli uomini che si rifugiano insieme nelle casupole e si fabbricano il nido e dominano nella loro immaginazione sul vasto mondo. Povero pazzo, che stimi tutto così basso solo perché tu stesso sei così piccolo. Dai monti inaccessibili, attraverso deserti mai calpestati da nessun piede, sino alla fine dell'oceano sconosciuto dappertutto, alita lo spirito dell'eterno creatore e si rallegra di ogni granello di polvere che lo percepisce e lo ama. Quanto spesso a quel tempo ho desiderato raggiungere con le ali della gru che passava in volo sopra di me la riva del mare sterminato, per bere dalla coppa spumeggiante dell'infinito quella turgida gioia di vivere e sentire solo per un attimo, nella forza limitata del mio petto, una goccia della beatitudine di quell'essere che crea ogni cosa in se stesso e da se stesso. Fratello, il solo ricordo di quelle ore mi fa stare bene. Persino rievocare, esprimere di nuovo quella tensione, quel sentimento indicibile, eleva la mia anima sopra se stessa, per poi farmi sentire doppiamente l'angoscia della condizione in cui ora mi trovo. Davanti alla mia anima si è alzato un sipario, e il teatro della vita infinita si tramuta dinanzi a me nell'abisso della tomba eternamente dischiusa. Puoi forse dire: questo è? Quando tutto passa, quando tutto scorre via con la rapidità di un temporale, e così di rado resiste nella forza intatta del suo essere, ma viene trascinato via dalla corrente, sommerso, fracassato contro le rocce. Non vi è istante che non consumi te e i tuoi cari. Non vi è istante in cui tu stesso non sia, non debba essere un distruttore. La passeggiata più innocente costa la vita a 1000 poveri vermiciattoli. Basta un passo per mandare in rovina le laboriose costruzioni delle formiche e frantumare un piccolo cosmo trasformandolo in una tomba ingloriosa. No, a commuovermi non sono i grandi, rari travagli del mondo, quelle alluvioni che spazzano via i nostri villaggi, quei terremoti che inghiottono le vostre città. Invece mi rode il cuore la lenta potenza distruttiva insita nella totalità della natura, la quale non ha creato nulla che non distrugga il suo vicino e se stesso. E così vacillo inorridito. Cielo e terra mi circondano con le loro forze creatrici. Io vedo soltanto un mostro che eternamente divora, eternamente rumina quanto ha divorato. 21 agosto. Invano tendo le braccia verso di lei la mattina, quando riemergo da grevi sogni. Invano la cerco di notte nel mio letto, quando un sogno benigno e innocente mi ha ingannato, facendomi credere di sedere in un prato accanto a lei e di tenerle la mano, coprendola di 1000 baci. Quando poi, ancora sprofondato per metà nell'ebbrezza del sonno, la cerco tentoni e così facendo mi sveglio, allora un fiume di lacrime mi rompe dal cuore oppresso e piango sconsolato sul mio futuro senza luce. . 22 agosto. È una sventura, Willem. Le mie energie sono precipitate in un'inerzia irrequieta. Non riesco a stare in ozio e neppure a fare qualcosa. La natura non risveglia più in me alcun pensiero, alcun sentimento, e i libri mi danno la nausea. Quando manchiamo a noi stessi, tutto ci manca. Ti giuro che a volte vorrei essere un bracciante per avere la mattina al risveglio un progetto per la giornata, un impulso, una speranza. Spesso invidio Albert, vedendolo sepolto fra gli incartamenti fin sopra gli orecchi, e mi figuro che starei bene se fossi al suo posto. Già più di una volta ho avuto la tentazione di scrivere a te, al ministro, per sollecitare quel posto presso l'ambasciata che, come tu mi assicuri, non mi verrebbe rifiutato. Lo credo anch'io. Il ministro mi vuole bene da molto tempo. A lungo mi aveva consigliato di dedicarmi a qualche occupazione e per un'ora mi sento davvero incline a farlo, ma poi, quando ci ripenso e mi viene in mente la favola del cavallo che, insofferente della propria libertà, si lascia mettere sella e morso e viene montato fino a morirne, allora non so più cosa devo fare. E, caro amico, il desiderio di un miglioramento della mia condizione non è forse un'intima insofferenza, un disagio che mi perseguiterà dovunque io vada? 28 agosto. È vero. Se la malattia che mi affligge potesse essere guarita, sarebbe questa gente a farlo. Oggi è il mio compleanno e appena sveglio ricevo un pacchetto da parte di Albert. Appena lo apro, mi trovo sotto gli occhi uno dei nastri rosa che Lotte portava quando la conobbi e che da allora l'avevo pregata più volte di donarmi. Oltre a ciò vi erano due libricini in 12esimo. Il piccolo Omero di Weltstein, un'edizione che tanto spesso avevo desiderato per non dover trascinarmi appresso nelle passeggiate, quella di Ernesti. Vedi, così prevengono i miei desideri, così escogitano tutte le piccole gentilezze dell'amicizia, che sono 1000 volte più preziose di quei doni abbaglianti con i quali la vanità del donatore tenta di umiliarci. Bacio i nastri 1000 volte e a ogni respiro centellino il ricordo della beatitudine di cui mi colmarono quei pochi giorni felici, perduti per sempre. È così, Willem. Io non me ne lamento. I fiori della vita sono soltanto apparenze. Quanti spariscono senza lasciare una traccia dietro di sé? Quanti non si trasformano in frutti? E quanti fra questi frutti non giungono a maturare? Eppure ne restano ancora a sufficienza, eppure, fratello mio, possiamo forse trascurare i frutti maturi, disprezzarli, lasciarli marcire senza averli gustati? Addio. È una splendida estate. Spesso salgo sugli alberi del frutteto di Lotte con una lunga pertica e colgo le pere dalla cima. Lei sta sotto e le raccoglie quando le faccio cadere.